Allora, io credo che la visita di Vauro sia soltanto un pretesto, l'ennesimo pretesto con cui il regime cerca di mettere a tacere le voci dissonanti. Infatti nessuno di quelli che hanno chiesto la testa di Vauro è insorto quando Berlusconi faceva battute di cattivo gusto, barzellette sugli ebrei, sulle donne, battute sugli antifascisti in vacanza al confino. E penso che stiamo scivolando sempre di più in un regime autoritario, che però, mentre all'epoca di Mussolini metteva i giornalisti, gli intellettuali davanti a una scelta precisa, prendere o non prendere la tessera del partito fascista, oggi è molto più subdolo e lascia ampie possibilità di manovra agli opportunisti e ai vigliacchi. Ma di fronte a episodi come la censura di Vauro non ci sono vie di mezzo. Penso che bisogna mettere quelli che lavorano nell'informazione e nelle televisioni davanti alle proprie responsabilità, sollecitare, come state facendo, prese di posizione e anche rendere visibili le scelte di campo. Chi sta di là con il padrone d'Italia inseguendo piccole e grandi carriere e chi sta di qua con i cittadini a difendere la libertà di informazione.